Radio Cookie. Bene ragazzi, ben ritrovati in studio con il vostro Fauno Blippi dopo questa splendida interpretazione degli Schooling Parapsichico, un po' enigmatica, un po' introspettiva, ma sempre all'avanguardia. Diamo inizio, come di consueto, ogni mercoledì pomeriggio al nostro appuntamento con la rubrica Poesia e Cucina. Abbiamo con noi oggi in studio uno dei più affermati poeti della scena contemporanea. Diamo il benvenuto a Manlio Opobor. Buonasera a tutti. Bene Manlio, oggi sei venuto qui in radio per lanciare il tuo ultimo libro, Gamberetti di Montagna. Spiegaci un po' da dove nasce l'idea per questa nuova raccolta di poesie. Beh, a dire il vero, Fauno, come tutte le volte mi succede di avere dei contatti con una sfera del pensiero che io chiamo subultracosciente. È lei che mi dà tutti gli spunti per l'esternazione delle mie più grandi opere. Da Ritorno a Kiev, Gente di Lucrino, da Togliti la tua cunica, a Pestaggio Corale. È la subultracoscienza ad avermi permesso di essere paradossalmente me stesso. Ma per aiutare tutti i nostri ascoltatori a capire meglio il genio che c'è sotto tutto questo, noi di Radio Cooking, insieme all'autore qui presente, abbiamo scelto per voi una poesia tratta da Gamberetti di Montagna, che lo stesso Manlio leggerà per voi. Vai Manlio. La lista della spesa. Una confezione d'acqua, il cibo per gatti, pomodorini pagino un chilo, tonno in offerta, chinotto, carne in scatola, idiosincrasie, detersivo per pavimenti, moltitudini, piatti di plastica, caffè, spaghetti, spugnette abrasive per lavare i piatti, aporesi, affettati misti. Grazie mille Manlio per la tua splendida poesia. E ora diamo il via alle telefonate 00556783254592635490985314. Chiunque voglia chiedere qualcosa al nostro ospite è il benvenuto. Chi c'è in linea? Da dove chiami, Zacco? Da Rocca Bustarzi. Bene, Zacco, vuoi chiedere qualcosa al nostro autore? No, veramente volevo chiedere se potevate mandare una canzone degli Schooling Parapsichico. Zacco, guarda che adesso non è il momento per richiedere nuove canzoni, è il momento del nostro ospite. Non me ne Ma, Zacco, va bene, sarei accontentato. Sì, Alla regia mi dicono che è pronto un brano per te. Ecco ancora una volta gli scuni parapsichico su Radio Cooking.